Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Tra gli obiettivi inseguiti a lungo dalla ricerca, ma con scarso successo, c'è stato quello di mettere a punto una colla che facesse presa sott'acqua. Un piccolo esperimento che tutti possono fare per verificare quanto sia difficile consiste nel riempire un bicchiere d'acqua e tentare di incollare sulla superficie interna del bicchiere, che a quel punto sarà sommersa, una striscia di scotch, che pure aderisce perfettamente al vetro asciutto. Ci vuole poco a verificare che è semplicemente impossibile. Ma nemmeno gli adesivi più sofisticati avevano finora ottenuto risultati soddisfacenti. Ebbene, ai primi di marzo, Muscle Polymers, una startup nata da studi compiuti alla Purdue University da Jonathan Wilker, ha annunciato di avercela fatta. Ne parliamo con Irene Bonadies, ricercatrice dell'Istituto Polimeri Composti e Biomateriali del CNR. Buonasera Bonadies, bentornata a Smart City. Grazie e buonasera a tutti. Allora, intanto, perché è così difficile fare una colla che fa presa sott'acqua? Non sembra una cosa difficilissima da fare, e invece... Beh, è difficile perché in realtà abbiamo l'acqua proprio che è l'ostacolo principale, in quanto l'acqua, e soprattutto l'acqua salina, quindi l'acqua di mare, indebolisce le colle tradizionali, rallenta la loro capacità di indurirsi. Inoltre bisogna pensare che sulla superficie degli oggetti che dobbiamo ad esempio incollare ci può essere un sottile strato di molecole di acqua che proprio ostacolano fisicamente la realizzazione e l'ancoraggio della colla al substrato, quindi la realizzazione di legami chimici tra le molecole di colla e il substrato su quale noi dobbiamo applicare la colla. Ecco, quindi abbiamo in realtà due problematiche diverse. Ecco, è sbagliato pensare che in fondo anche le molecole d'acqua si incollano, mi lasci dire così, alla colla, si trovano lì in mezzo e quindi uno alla fine cerca di incollare dell'acqua con dell'acqua, questo è un po' il problema. Sì, infatti diciamo che poi le colle che sono state messe a punto proprio per risolvere questo problema cercano di sfruttare anche quest'acqua presente e di superare il problema proprio eliminando e bypassando queste molecole di acqua. Qual è a questo punto il segreto di questa colla messa a punto dalla startup? Ricordiamo il nome perché c'è un po' della risposta in questo nome: Muscle Polymers. Sì, perché questa colla è una colla che si ispira alla natura e in particolare al mondo marino, in quanto si è ispirata e cerca di mimare quello che succede con le cozze che, diciamo, in maniera naturale sono in grado di aderire al substrato, al fondale marino in maniera anche piuttosto solida. Direi di sì, chiunque abbia provato a staccarle sa bene che non è così facile. Sì, e infatti proprio studiando le proteine che la cozza secerne per attaccarsi al substrato, al fondale, i ricercatori hanno messo a punto una colla sintetica che appunto mima la stessa struttura della colla trovata nelle cozze. In particolare appunto è il bisso della cozza che è stato copiato, cioè quel filamento che proprio la cozza usa per legarsi al fondale, ed è un filamento costituito da amminoacidi e da un amminoacido un po' particolare che è la diidrossifenilalanina, indicata con la sigla DOPA, ed è proprio questa che è stata, diciamo, ricreata in laboratorio. Quali sono le applicazioni, ce le ricordi, di una colla in grado di fare presa sott'acqua o comunque, diciamo, su degli oggetti umidi? Perché poi, diciamo, si può essere immersi o meno, il problema è appunto avere adesione quando un oggetto è bagnato in un modo o nell'altro. Beh, basti pensare a tutte le applicazioni che riguardano ovviamente il mondo che possa essere quello della nautica, ma anche tutte il settore della ricerca scientifica marina, parte i settori quindi che uno associa al mare, classicamente una colla in grado di funzionare in maniera efficace in ambiente umido è importante anche in ambito biomedicale, dove, certo, diciamo, l'ambiente è pressoché sempre sempre umido, quindi una colla in grado di resistere è adatta anche quando si parla di protesi che possono essere sia ossee che possono essere cardiache e che quindi è importante abbiano una buona adesione su substrati di base umidi. Tra l'altro viene bene, se non sbaglio, spiegato che questa molecola che viene utilizzata è assolutamente non tossica, quindi è applicabile effettivamente in un contesto biomedicale. Sì. A me viene in mente banalmente che noi le ferite le suturiamo e magari un domani le potremo incollare. Ma sì, assolutamente. Sì, proprio perché questa colla deriva da, si ispira a delle proteine animali, è biocompatibile, può benissimo essere applicata anche in ambito biomedicale. Diciamo che il precursore che viene utilizzato per questa colla, per far capire un attimo, è lo stesso che poi dà origine alle melanine, che sono i pigmenti colorati che troviamo nei capelli. Noi già abbiamo nel nostro corpo lo stesso precursore e quindi non è sorprendente che sia tollerabile, assolutamente tollerabile dall'organismo, è molto chiaro. Ecco, quindi alla fine qual è il giudizio che dà di questo ritrovato? Beh, da un punto di vista scientifico è ottimo e l'averlo realizzato anche concretamente come prodotto commerciale, quindi con una procedura che è diciamo sostenibile sia commercialmente che da un punto di vista anche ambientale è ottimo perché appunto risolve numerosi problemi anche per materiali specifici, ad esempio come sembra assurdo ma il legno, il teflon sono materiali che sott'acqua hanno difficoltà ad essere incollati e questa colla invece è diciamo veramente, questa tipologia di colla è veramente efficace anche per questi substrati. Grazie Irene Bonadies. Arrivederci, buona serata. Bene cari ascoltatori, buon incollaggio a tutti voi e buona serata.